Crediamo e contiamo che Pierluigi Collina si faccia sentire pubblicamente, magari già oggi. Ce n'è bisogno. Abbiamo bisogno di spiegazioni dopo il fine settimana peggiore, con quell'arbitraggio d'ancien régime di Dondarini e con Airoldi che va a completare a Torino il sabato più nero. Spiegazioni ineludibili, anche perché l'esperto e internazionale Dondarini, toccato ma assolto da Calciopoli, è il fischietto più utilizzato da Collina insieme a Rocchi e Morganti, 13 direzioni a testa in questa stagione. Per il resto una domenica di ordinari errori, da Morganti in Roma-Fiorentina, a Saccani a Livorno, a Pierpaoli a Cagliari, fino a Brighi, male in Empoli-Catania. Anche Giannocchero nel posticipo di San Siro non convince. Sono direzioni sufficienti quelle di Celi e di Orsato. È un arbitraggio eccellente invece quello di Rocchi in Sampdoria-Inter. Rocchi che torna in testa alla nostra classifica, ora a 18 punti, a 17 Rizzoli e Morganti, a 15 Dondarini, a 14 D'Amato. Nella parte medio-bassa della classifica spiccano Saccani, solo 8 punti in 11 partite arbitrate. Stesso discorso per Gava, 6 punti in 9 gare, e per Pierpaoli, 5 punti in 8 partite. Carlo Genta, GR24, Il Sole 24 Ore.